Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Che l'elettricità avesse qualcosa a che fare con i processi biologici lo aveva già capito Galvani nel 700 con i suoi famosi esperimenti sulle rane. Naturalmente oggi ne sappiamo molto di più, al punto che si sta studiando come realizzare vere e proprie batterie elettriche basate su batteri e microorganismi vari. Questa possibilità è molto attraente, per esempio, per il settore della depurazione delle acque. Infatti, i depuratori sono una specie di allevamento di batteri, i quali, nutrendosi degli inquinanti, appunto, li neutralizzano. Oggi la tecnologia non è matura per la produzione in massa di elettricità da batteri, ma questi studi hanno aperto una strada inaspettata e anche molto più a portata di mano, cioè mettere appunto dei processi di depurazione a bassissimo consumo energetico. È la strada intrapresa dal gruppo di ricerca sulla bioelettricità dell'Università di Alcalá a Madrid, guidato dal professor Abraham Esteve Nunez, che ho intervistato chiedendogli di spiegarci anzitutto il rapporto tra elettricità e vita biologica. Sentiamo. Yes, I think that's one of the most intriguing thing for the common people to understand. È sicuramente un aspetto di non immediata comprensione per la gente, poiché di solito l'energia elettrica è associata a cavi che trasportano elettroni e che fanno funzionare i più svariati macchinari, ma sono gli stessi elettroni che viaggiano nel nostro corpo, che vengono rilasciati dalle sostanze contenute nel cibo che mangiamo e vengono trasferiti all'ossigeno che respiriamo. In una certa misura, tutti i batteri e le cellule viventi sono capaci di giocare con gli elettroni. Quello che dobbiamo capire è come estrarre questi elettroni dalle cellule e trasformarli nell'elettricità che ci è così familiare. Quindi in pratica ci sono delle reazioni chimiche in cui c'è uno scambio di elettroni e se uno è capace, per così dire, di mettersi in mezzo e catturare al volo questi elettroni di passaggio, può produrre energia elettrica, che è poi quello che accade nelle normali batterie. Esatto. In effetti quello che facciamo è convertire energia chimica in energia elettrica, solo che queste reazioni avvengono all'interno di un organismo vivente. È molto difficile immaginare di tirare fuori l'energia che producono le cellule del nostro corpo, mentre i batteri sono aperti a questo tipo di manipolazioni del metabolismo. E voi infatti li manipolate, e quello che avete scoperto è che c'è un modo più immediato di sfruttare questa opportunità. Sì, all'inizio della sperimentazione eravamo concentrati sulla produzione di energia elettrica. Poi ci siamo accorti di come fosse più utile e immediato lavorare sul risparmio di energia elettrica nel processo di trattamento delle acque reflue. Ci siamo focalizzati sul processo metabolico dei batteri, su come stimolarli a consumare molto più del necessario, inibendo la loro crescita. Quello che facciamo è favorire il flusso degli elettroni prodotti dal metabolismo, una specie di drenaggio degli elettroni che otteniamo grazie a dei materiali conduttivi. Praticamente gli fate un salasso. Ecco, ma ci spiega perché è così importante evitare di crescere una grande massa di batteri? Uno dei maggiori ostacoli legati all'utilizzo di batteri per la depurazione delle acque di scarico è che questi batteri si nutrono, ingrassano e al termine del trattamento formano dei grandi quantitativi di fanghi che devono essere rimossi a un alto costo energetico. Avere batteri che invece non ingrassano permette di risparmiare sullo smaltimento con evidenti vantaggi. Ed è un risultato acquisito ormai. Senta, in Italia poco meno del 2% dell'energia consumata nel paese viene impiegata per depurare le acque. Quanta energia riuscite a risparmiare con questa vostra tecnologia rispetto agli impianti tradizionali? In questo senso la risposta è abbastanza semplice. Andiamo a risparmiare il 100% dell'energia elettrica necessaria. Tenga conto che negli impianti tradizionali metà dell'energia consumata serve a pompare ossigeno nell'acqua per purificarla. Noi non pompiamo ossigeno, lasciamo i batteri lì a fare il loro lavoro, a contatto con questi materiali conduttori. Siete pronti per un'applicazione su scala industriale? Assolutamente sì. Abbiamo iniziato a trattare acque di scarico nel sud della Spagna, trattandone 2.000 litri al giorno per 365 giorni all'anno. Il sistema ha funzionato perfettamente, in tutte le circostanze. E ora siamo pronti a commercializzare l'intero processo, non solo in altri paesi dell'Unione Europea, ma anche nei paesi in via di sviluppo che trovano più difficoltoso realizzare sistemi di trattamento acque che necessitano alti consumi elettrici. Tornando per un attimo alla produzione di energia elettrica, invece, ecco, quanta se ne potrebbe produrre? Esperimenti di laboratorio dimostrano che è possibile arrivare a 5 kW per metro cubo. Ma per raggiungere questi risultati con impianti su larga scala, bisogna ancora superare ostacoli tecnologici per riuscire a raccogliere l'energia. Okay. Torniamo in studio solo per ringraziare il professore Steve. Saluti a voi tutti in ascolto. A domani.